Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Le visite più difficili sono nelle ditte più piccole, dove la burocrazia è pari a zero e dove chi comanda è il vecchio. Oggi devo andare in una di queste aziende, dove mi dicono che il titolare è un piccolo dittatore. Ciao a tutti, sono Davide, abito a Casadenovo e ho 31 anni. Sono laureato in ingegneria e ho una bellissima ragazza. Cerco di impegnarmi al massimo e la storia di oggi parla proprio del mio approccio con quelli che sono i clienti un po' più particolari che andiamo ad affrontare. In fabbrica le giornate erano piene di rumori metallici, odore di limatura di ferro e acqua chimica. I colleghi in fabbrica, eroi di un microcosmo e quella sirena che suonava alle 8, alle 12, alle 13 e finalmente alle 17, sono qualcosa che ricorderò sempre con affetto e un pochino di nostalgia. Concedimela oggi che sono un dirigente commerciale, dove annuso file Excel, purtroppo privi di un odore che non sia quello di un momentaccio. Fare l'operaio è stato bello. Perché chi vive in una città tipo Milano, davvero non lo so le altre come sia, però chi vive in una città come Milano e fa un certo tipo di lavoro, come il mio ad esempio, quello di Tiziano, quello di Margherita, di Paolo, ha a che fare tutto il giorno con dei file, con delle immagini che si aprono sul computer, con dei fogli, Excel no, non è il caso di Manuel che è la persona che ha appena mandato il messaggio che vi ho letto, però sì, insomma, immagini, fotografie, scritte, taglia il file, audio, monta, mette insieme e crea qualcosa che non è mai palpabile, no? Chiamatelo come volete, servizi, terziario. E la sensazione, da questo punto di vista, da questo punto di osservazione, è che gli operai non esistano. Cioè, è che l'industria pesante in Italia non ci sia più. I media non ne parlano poco, ne parlano solo quando ci sono degli scioperi, quando ci sono i contratti da sistemare, quando c'è qualcuno che va in strada perché chiude un'azienda, magari una grande azienda perché ci sono delle persone per strada e le loro famiglie, eccetera, eccetera. Ma da questo punto di vista, la sensazione è che, non vedendo più film come quelli che si facevano, tipo La classe operaia, oppure film sulla vita degli operai, sulla vita della fabbrica, la sensazione è che l'operaio non esista più. E quindi, proprio voi che vi siete arrabbiati in questo momento, perché l'ho appena detto, 800240024, alzate il telefono, mi chiamate e mi dite: io faccio l'operaio e la mia vita è così, così, così. 800240024, vale tutto, valgono i metalmeccanici, valgono i tessili, se esistono ancora in Italia dei tessili, valgono gli operai della chimica, valgono gli operai del, ditemene uno, del metallurgico, metalmeccanici, metallurgico, mi serve la stessa roba, siderurgica, valgono i qualsiasi operaio, qualsiasi, aziende piccole, aziende grandi, aziende internazionali, italiane, estere, 800240024. Ma già il turno, cioè per uno che non ha idea di che cosa sia, il fatto che per una settimana uno faccia dalle 6 alle 12, vabbè, Paolino fa i turni, è vero, Paolo, voi fate i turni, però fate i turni dalle 6 alle 4, sono tanti turni, ok, lasciamo stare i turni dei tecnici di Radio 24, però il turno di fabbrica è 6, 2, 2, 8, 8, 6, no, ho sbagliato, aspetta, no, è una manca un turno, manca un turno, no, aspetta, allora è 10, 22, 6, è giusto, 22, 6, 6, 14, 14, 22, giusto? Se volete insultarmi per dirmi qual è la vera vita di un operaio, 800240024, perché oggi la storia di Davide parla dell'incontro con, come lui lo chiama, questa sorta di piccolo dittatore che è il capo di questa fabbrica. E questa è una fabbrica piccola, una fabbrica siderurgica, piccola o media, insomma, che sono quelle in cui c'è ancora un signore, c'è il, che so, il commendatore o il dottor tal dei tali, ma anche quelle in cui esiste un board, esiste un consiglio di amministrazione. Comunque la vita che riserva al suo interno è quella dell'operaio, no? E visto che la sensazione è che non ci siano più, oggi vogliamo sentire solamente degli operai. Vi leggo un ultimo messaggio che dice: Massimo, della fabbrica odiavo le gerarchie assurde, capi reparto inetti eppure cinici, gente che con un livello in più si atteggiava come un pessimo tenente e ambienti di lavoro difficili, ma quello che non scorderò mai è la fratellanza con i lavoratori, sempre pronti a essere solidali, e considero questo come un autentico valore che purtroppo si sta perdendo. Questo non lo so, lo scopriremo da quelli che chiamano oggi in diretta 80024 0024 oppure, se avete voglia, 349 238 6666 per gli sms. Solo la vita degli operai. Dopo una laurea in ingegneria, lavoro da 3 anni in una grande azienda siderurgica. Da qualche tempo vengo mandato presso i clienti per visionare in modo diretto le loro esigenze e cercare di risolvere i problemi che si possono presentare con i prodotti forniti. Inaspettatamente, le visite più difficili sono nelle ditte più piccole, dove la burocrazia è pari a zero e dove chi comanda è ancora il vecchio. Oggi devo andare in una di queste aziende, dove mi dicono che il titolare è un piccolo dittatore, tanto milionario quanto burbero. Hanno dei problemi con l'ultima fornitura di materiale. Sono riuscito a fare questo lavoro grazie a delle conoscenze e all'impegno che sono riuscito a dimostrare con un altro lavoro antecedente che facevo e che comunque mi portava a contatto con le persone e al quello che si chiama in inglese problem solving. Mi presento in questa ditta vicentina e dopo 15 minuti di attesa si sente un vocione che scende le scale. Mi ritrovo davanti Pino, il titolare, 77 anni, visibilmente sovrappeso e con indosso dei vestiti che io nemmeno userei per andare a lavorare nell'orto. I baffi non sono altro che peli del naso troppo lunghi, un cappellino di lana bucato per completare il tutto. Mi presento e lui borbotta qualcosa di incomprensibile. Gli tendo la mano, lui rifiuta di stringerla. Cominciamo bene. Pino mi accompagna in produzione e comincia a bofonchiare qualcosa in dialetto vicentino. Io sono di Lecco e conosco il mio dialetto e ascoltando Pino non si capisce nulla. In più le macchine stanno lavorando e fanno anche un gran baccano. A Pino manca un dente e mentre parla fischietta. Non sto capendo nulla se non alcune parole come disastro, ladri, merda, tasse. Probabilmente sta parlando di politica, non mi sembra che sia ancora entrato nel tema del difetto del materiale. Lui continua a bofonchiare, nel frattempo percorriamo stretti passaggi circondati da lamiere, tubi e macchine rumorose. Raggiungiamo uno spiazzo con la macchina del caffè. Lui si ferma, si gira, mi guarda e mi chiede: «E te cosa ne pensi?» Io rimango impassibile ma sono preoccupato. Non sono riuscito a capire nulla, oltre ad alcune parole sparse. E sono certo che chiedendogli di ripetere non capirei molto di più, oltre al fatto che perderei sicuramente credibilità nei confronti di un uomo burbero che ha sicuramente dei semplici modi per giudicare le persone, cioè sei bravo o sei uno sfaticato. In pochi secondi cerco di ricordare le parole che sono riuscito a carpire e con una sicurezza che non ho rispondo: guardi, per me sono tutti uguali. Penso che sia una risposta adattabile a un sacco di domande, soprattutto quando si parla per luoghi comuni, di politica, di tasse. Lui mi guarda e risponde: hai proprio ragione, sono tutti uguali. È un tipo di persona che ho più volte incontrato nella mia carriera lavorativa. Sono persone comunque molto attaccate al proprio lavoro, forse troppo. Non riescono in un certo senso a fidarsi dei più giovani che cercano di spiegargli perché il mondo è cambiato, sia nel lavoro che negli oggetti proprio fisici che loro stessi stanno lavorando. Dentro di me tiro un sospiro di sollievo, lui mi dà una pacca sulle spalle e mi porta a vedere il materiale difettoso. A quel punto sono pienamente nel mio campo e discuto chiaramente con Pino, che capisce che ne so qualcosa, e lui stesso mi fa domande interessato. Anzi, si spinge a dirmi che sono competente anche se giovane. Non risolvo certo il problema, ma riusciamo ad accordarci su come arginarlo e come limitare l'impatto con la sua produzione. 2 ore dopo essere entrato in ditta, mi congedo. Congedandosi, lui non mi stringe la mano, ma solo perché mi fa notare che gli manca il pollice della mano destra. Yeah. Di recente mi è capitato di frequentare un'acciaieria. Non mi sono messo a lavorare nel campo siderurgico perché non ho alcuna conoscenza in merito e probabilmente non uscirei tutto intero da una giornata in un'acciaieria. Però averci passato qualche mattina mi ha fatto capire un po' di cose. La prima, come dicevo prima, è che l'industria pesante in Italia esiste come, e questa, che sembra una baggianata, non lo è, per uno che vive e lavora in una città come Milano in cui tutto sembra essere immateriale e le persone intorno non fanno altro che lavorare nel campo del web, del marketing o del graphic design. Insomma, nessuno che arrivi a casa la sera con le mani sporche. E invece a Ospitaletto, a un'ora di auto da casa mia, ho incontrato persone che passano la loro giornata a fondere e a dare una forma a tonnellate d'acciaio. E lavorano al gelo, all'inverno, ma allo stesso tempo a temperatura infernale vicino ai forni di fusione. Marchetti Flavio, ho 53 anni e faccio il responsabile del Parco Rottano. Lavoro qua da 18 anni. Del mio lavoro mi piace il fatto che è molto vario. Ho iniziato a lavorare nel 74. Si faceva ancora veramente fatica nelle acciaierie, fumo, calore, rumore. Una volta in acciaierie c'erano tantissime persone, adesso con un decimo di quel personale là si fa il doppio della produzione. E lì ho parlato per ore con lui, ad esempio, con Flavio, che lavora in acciaieria da 18 anni e ha la passione per i cronometri. Passa i fine settimana su piste di ogni tipo, a misurare il tempo di chi corre in bici, in auto, a piedi o in moto. Ma ho incontrato anche Emanuele, che ha 58 anni ed è arrivato in acciaieria dopo aver lavorato per 5 anni in Iraq, a Bassora, e adesso è il responsabile della parte elettrica dell'azienda. Insomma, se salta salvavita chiamano lui. E poi ho parlato con Maurizio, che lavora alla pressa ma è il centravanti della squadra di seconda categoria del suo paese. E poi con Federico, che ha cominciato in acciaieria come operaio. Poi, dopo 10 anni, si è iscritto in università e ora è ingegnere responsabile. E gli operai, quando parlano di lui, hanno rispetto perché è uno che si è sporcato le mani. Ho conosciuto Pierluigi, che sembra un docente di letteratura comparata e invece lavora alla manutenzione. E qualsiasi cosa si rompa in azienda, da un muletto a un forno, arriva lui e sa metterci le mani. Ho parlato con Michele, che ha 19 anni, lavora in acciaieria da settembre, 2 soli mesi dopo aver finito la scuola professionale. Ha fatto uno stage e lo hanno assunto e ti racconta com'è cambiata la sua vita da quando ha uno stipendio fisso mensile. Ho chiacchierato anche con Maurizio, che ha fatto il corriere, il barista e poi, quando la crisi si è fatta sentire, è tornato in azienda. E poi con Carlo, il sindacalista. E poi con Christian, che ha 26 anni ma è già responsabile delle spedizioni dell'azienda. E lì in azienda ha già lasciato un pezzo di sé, un pezzo di dito, quando qualcuno ha attivato una sega automatica mentre lui ci stava lavorando sopra. Insomma, non sono tutti personaggi come quello raccontato da Davide, nelle acciaierie. E da quando ci sono stato e ho conosciuto le persone che ci lavorano, ho iniziato a far caso a tutto l'acciaio che c'è intorno a noi, durante una nostra giornata tipo, e ho capito che senza le acciaierie il mondo si accascerebbe su se stesso. A working class hero is something to be. Non lo sai che gli operai non hanno la possibilità di usare il cellulare? Mi scrive Flavio. Sono andato in bagno per mandarti questo sms. 349-238-6666, ma anche 800-24-0024. Se fate gli operai e semplicemente... Che vita fate? Quali sono i vostri turni? Che lavoro fate? Come ci lavorate? Come ci siete arrivati? Se magari siete lì e avete modo di nascondervi in fabbrica. Nunzia, 36 anni, faccio l'operaia metalmeccanica. La cosa positiva, riesco, nascondendo gli auricolari sotto una bandana, ad ascoltare Radio 24 tutto il giorno. Grazie per la compagnia. Sono un operaio molto particolare, sono un incassatore. Maneggio tutti i giorni pietre preziose e gioielli. Ti fa sentire un po' ricco, ma alla fine del mese sei solo un operaio. Raimondo, è ancora Angelo, 54 anni, 37 di fabbrica. Sono felice, hobby, musica nei locali e sfrecciare con il gommone. Sposato, 2 figli e tante risate con i colleghi. Non so perché ti vedo come un tamarro, Angelo, che sfrecci in giro con il gommone, non so, tipo a 200 metri dalla spiaggia. 800240024, non se siete dei tamari col gommone, ma se fate gli operai. Non è né un tamarro né un operaio, Davide, che però ci ha mandato una storia ed è al telefono. Pronto, Davide? Ciao a tutti, ciao. Oddio, non lo so, poi magari in realtà, visto che tutti noi siamo un po' tamarri, in fondo lo sei anche tu. No, direi di no. Direi di no. Guarda, l'avrei detto dalla voce, dal tono di voce, e anche però da questi mezzi pesanti che ti stanno passando a 5 centimetri dalle orecchie. Sì, sono in autostrada, sto andando in Francia. Davide, mi ricordi esattamente che ingegnere sei? Che lavoro fai? Io sono ingegnere dell'automazione, lavoro come responsabile della qualità. Per un'azienda siderurgica, no? Sì, sì, sì. Cioè, quindi fate acciaio? Lavoriamo con l'acciaio, sì. Ma è Maniere, tubi, eccetera, eccetera. Ma è un'azienda... Ma senti, ma ci stai andando in moto in Francia oppure puoi ripararti in automobile? Perché ho il panico che tu venga investito da un momento all'altro. No, ho accostato okay. Proprio perché... Ok, ok, l'importante è che tu... L'importante è che tu sia al sicuro, ok, no, d'accordo. Se, che tipo di acciaio fate? Perché in quei giorni che ho passato per altri motivi in un'acciaieria vicino a Brescia, ho scoperto che ci sono... Cioè, non c'è un unico tipo di acciaio, ce ne sono di diversi e molto... Sì. Cioè, voi per che cosa fate? Per ponti, navi, calcestruzzo? No, di tutto, dagli scaffali, sedie, tavoli, anche stili per auto, di tutto. Quanto è grande? Quanti operai ci lavorano? 120. Che rapporto hai tu con gli operai? Perché tu sei un po' un capo, giusto? Purtroppo, sì. Come purtroppo? Nel senso che ci sono delle responsabilità importanti ogni tanto. Però immagino anche che, insomma, alla fine le responsabilità siano pagate, giusto? Quindi... Sì, diciamo di sì. Va bene, ok. Che rapporto hai con gli operai? Nel senso che è vero, continua ad esserci questa cosa per cui uno che lavora giù, dico giù nel senso in azienda, vede male uno che lavora su negli uffici. Beh, in questo caso non lavoro su da nessuna parte, io lavoro a stretto contatto con gli operai. Io sono sporco esattamente quanto loro, io ho le mani rovinate esattamente quanto loro. Quindi il rapporto è alla pari, assolutamente. Quindi anche un po' in virtù di questo che riesci ad andare a parlare con gente come il capo dell'azienda di cui ci hai raccontato, insomma. Può essere, sì, sì, sì. Come si finisce a lavorare in un'azienda siderurgica, Davide? Tu cosa hai fatto? L'ingegneria, poi hai fatto... Io ho fatto ingegneria, poi ho lavorato per 3 anni in un'azienda di consulenza e poi è fondamentale imparare l'inglese. Perché a quel punto ti si aprono tante porte ed è quello che è stato per me. Ma scusami, l'azienda è italiana però, giusto? Sì, ma la maggior parte dei clienti sono... Ok, sono stranieri. L'ultima cosa prima di farti andare verso la Francia, come sta andando? Come va con la crisi? C'è un po' di crescita? È sempre un disastro? Non c'è stato nulla? Ma diciamo che ci sono difficoltà. Si fanno 8 ore pelate... Senza fare mezz'ora di straordinario, si arranca e si tira alla fine del mese. Ma ci sono, come dire, la sensazione che accadrà qualcosa di buono oppure si naviga a vista? A quel punto bisogna chiedere ai livelli più alti. Ah, okay. Io mi fermo fino a questo. Va bene, va bene. Perché... Noi facciamo quello che dobbiamo fare, va bene. Esatto. Davide, di farlo al meglio. Ti ringrazio, ti auguro buon viaggio, grazie per la storia. Grazie a voi. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao, grazie ancora. Ciao. Si vede che è uno che si sporca le mani, Davide. Si vede, non so esattamente da che cosa. Forse dal fatto che ha su l'elmetto, forse dal fatto che tiene in mano una tazzina di plastica, di caffè, come a dire, io sono nella pausa del caffè, mi permetto di fare la foto e di non stare al lavoro. Ci sono dei tubi alle sue spalle, e quindi è nel cortile dell'acciaieria o dell'azienda siderurgica per cui lavora. Questa nella foto di Davide che trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Operaio. Aggettivo e sostantivo maschile. Sostantivo. Lavoratore subordinato che esplichi mansioni prevalentemente manuali. Aggettivo. Degli operai, specialmente dal punto di vista sociale o sindacale. In entomologia, nome degli individui sterili di una delle caste degli animali o sociali, specie insetti, che provvedono al mantenimento della colonia. In numerose regioni, soprintendente o consigliere di una fabbriceria. Etimo, dal latino, operarius, derivato di opera. Opera. Data secolo XIV. Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Abbiatela, vieni al microfono. Dammi il microfono. Vieni qua. Parla, parla un momento solo. Lo studente è lì fuori, ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo proforno. Allora io dico, cioè che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! Erano gli anni in cui quella degli operai era un'epica, era una mitologia, veniva raccontata nei film. Questo era La classe operaia va in paradiso con Gian Maria Volonté di Elio Petri, che vinse un festival di Cannes addirittura, girato alla Falconi di Novara negli anni 70, credo 74 o 75. 800 24 00 24, parliamo con gente che lo fa adesso, non c'è mitologia, c'è semplicemente un lavoro, sono 8 ore tutti i giorni. Stiamo a Milano, andiamo da Marco. Pronto Marco? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene. Quanti anni c'hai, Marco? 28. 28? E lavoro da 11 anni in ditta. Ma come da 11 anni? Ma è legale? Sì, da quando ho 17 anni. Cioè, quindi eri minorenne, di fatto? Sì, sì. Che sì? Perché quando ho iniziato le superiori io bisognava solo fare il primo anno di superiori obbligatori. Poi si poteva iniziare a lavorare. Che ditta è la ditta, Marco? È una ditta meccanica, facciamo macchine utensili. Quindi tu esattamente che cosa fai? Me lo dici? Allora, io ho iniziato lavorando sul tornio. Ok. E dopodiché sono passato su prese ed esatrici. Ho imparato tutto piano piano, perché avevo fatto un anno di alberghiero, poi ho cambiato tutto. E ti fai i turni? No, faccio 10 ore, 11 ore al giorno. Ma come 11? Non sono 8, scusami. In teoria sì, però con gli straordinari bisogna lavorare. Perché vivo anche da solo, cioè convivo, ho comprato la casa, devo pagare tutto. Quanto hai di mutuo, Marco? Di cifra o di anni? Di cifra. 800 euro al mese. E di anni? 30. E di paga? Di paga con gli straordinari arrivo a 1.800. Marco, mi dici una cosa che ti piace e una cosa che non sopporti del tuo lavoro, poi ti lascio andare. Una cosa che non sopporto è il mio capo. E che ti piace? E che mi piace, è difficile trovarla, però forse continuare a cambiare tipo di cose da fare. Marco, il 27 di giugno è un giovedì alle 21, no, ci sei? Ti sei iscritto? Ottimo, allora fatti riconoscere. Va bene. Ciao Marco, ciao, ci vediamo il 27, ciao, grazie. Okay, ciao, ciao. Andiamo da Marina, in provincia di Monza Brianza. Pronto Marina? Pronto? Ciao, come stai? Buonasera, bene, sì, diciamo bene. Beh, dove ti trovi? Adesso sono in salvo, andare a prendere mia bimba, perché ho finito il turno alle 2, gira di qua, gira di là. E adesso mi tocca fare anche la mamma, ovviamente, oltre la turnista. Da quanto fai la turnista, Marina? Allora, dal 2013, poi come sempre ho fatto l'operaio, quando ho 18 anni che faccio l'operaio, ho 37 e niente, faccio i tre turni. Ora no, perché ho la bimba di 2 anni, ma comunque inizierò comunque, perché quando fai figli, anche questa cosa, probabilmente in azienda sei scomoda, perché puoi fare primo e secondo. Quindi ti pesa un po' e di conseguenza. Ho capito. Troppo. Marina, guarda, purtroppo ti sento un po' male, però prima di salutarti, mi dici la cosa che ti piace del lavoro che fai? Posso dirlo? Niente. Ah, niente, perfetto. Niente. Marina, però tu che sei di provincia di Monza, vieni il 27 con i tuoi figli. Ci provo, me ne sono i capricci. In bocca al lupo, ciao Marina, grazie. Ciao, ciao, ciao. Esco da un turno, da un 22-6, mi scrive Silvano. Domani ho un 14-22, settore chimico, ambiente ormai da caserma, con responsabile con la terza media e noi col diploma a far andare tutto. 800-24-0024, andiamo a Treviso da Augustin, giusto? Pronto? Sì, giusto. Ho pronunciato giusto? Quasi perfetto. Come mai hai questo nome? Ma perché sono nato all'estero, in Francia, e quindi mi è rimasto il nome che mi hanno dato i genitori in Francia. Okay. Poi i genitori erano emigrati, sono rientrati ed eccomi qua con questo nome. Ed eccomi qua, dove sei? Dove ti trovi, Agustin? Mi trovo a Conegliano Veneto, più o meno dove sto, nei paesi lì attorno, in stazione, per la verità. E che lavoro fai? Che operaio sei? Sono operaio di terzo livello e lavoro in una grande azienda che ha la tradizionale catena di montaggio. Quindi tu lavori in catena di montaggio, cioè fai la stessa cosa per 8 ore al giorno? Si fa la stessa cosa, ovviamente ogni tanto ti fanno lavorare in un posto piuttosto che un altro, ma lì si lavora 8 ore e si fa una stessa operazione ogni 45 secondi. Ma ad esempio oggi che cosa hai fatto? Operazioni 45 secondi. Oggi che cosa hai fatto ogni 45 secondi? Oggi scaricato, ho preso una cella, si chiama così, che è un involucro in plastica, preso dalla macchina e messo su un carro, e poi ogni 16 pezzi, si porta via il carro e poi si scarica e via così. E si porta questo pezzo a, diciamo, a dove inizia la catena, e lo caricano lì sulla catena, e poi ci sono i lavoratori che ognuno fa una microfase. Appunto, una fase di lavoro per 45 Ho capito, secondi, 45 però ogni quanto cambi quello che fai settimanalmente? Cioè, chi non cambia mai? Io ogni tanto ho la fortuna di poter cambiare, però insomma sempre fasi proprio elementari sono, non è che il cambiamento fa sì che si acquisisce, diciamo così, una quantità di lavoro diverso. Quelle sono tutte microfasi per gli operai, diciamo così, comuni. Questo è più o meno il lavoro che tutta la fabbrica fa, una fabbrica, certo, che ha un migliaio di dipendenti. E che, rapporto c'è, che rapporto c'è con i colleghi in fabbrica? Ma i colleghi è la parte buona della fabbrica, nel senso che si è tutti più o meno nella stessa condizione. Ovviamente ogni tanto, come tra colleghi, ci si dà anche il peggio di sé, però normalmente c'è un buon rapporto, okay, si sta insieme. Domani che turno fai, Augustin? Domani cambio turno, quindi da mezzogiorno alle 6, perché in questa fase c'è il contratto di solidarietà. Ah, ok, però quindi si lavora intorno a 8 ore. 8 ore, e quindi va bene. 6, 2, 14, 22. Marco, grazie ancora, in bocca al lupo. Ciao. Ciao, Augustin, perdonami. Marco è il prossimo che sentiamo. Pronto, Marco? Pronto? Ciao, come stai? Bene, grazie. Che operaio sei, Marco? Sono un metalmeccanico. Ma esattamente, dimmi cosa fai per 8 ore al giorno. Lavoro su un tornio, che è un tornio e una fresa insieme. Da quanto lo fai? Da 5 anni in questa azienda, da quasi 15 in totale. Ti piace? No. Cos'è che non ti piace, Marco? Non mi piace la monotonia, non mi piace l'ambiente chiuso, non mi piace il caldo d'estate. Cosa avresti voluto fare? Cosa ti piacerebbe fare? Non lo so, io sono appassionato di videogames, mi sarebbe piaciuto entrare in quel settore, però... Ormai ho 30 anni, ho una famiglia, una bambina. Lo immagino. Non ti nego che mi piacerebbe cambiare, però poi mi scontro con la realtà. Marco, vieni il 27 di giugno, mi raccomando, sei a Varese. Ci spero, guarda. Ti aspetto qui. Ti seguo tantissimo ed è una gran bella trasmissione, mi tiene compagnia tutti i giorni. Ti ringrazio. Peccato che al lavoro non posso sentirvi, però vi ascolto sempre quando stacco. Ciao Marco, grazie ancora. Ciao. Ciao, te, ciao, ciao, ciao, ciao. L'ultimo di oggi, andiamo a Bolzano da Matteo. Pronto Matteo? Pronto, ciao. Ciao, tu facevi il rappresentante. Sì, diciamo che lavoravo in un concessionario di macchine, avevo a che fare tutto il giorno con listini, prezzi, sconti, gente che veniva a chiedere cose impossibili. Sì. La mia azienda, di cui ero socio, ha chiuso e io sono tornato a fare il mio vecchio lavoro, sono tornato agli albori, sono andato in cantiere proprio a fare... Il muratore? L'operaio, no, io sono elettricista, sono un elettrotecnico. Ah, ok, scusami. Okay. Io sono rinato. Io sì? non avendo più a che fare con telefoni, scadenze, prezzi, costi, e con l'italiano medio, diciamo. Sì. E tornare in cantiere, fare attività fisica... Vedere quello che fai durante il giorno, quello che crei, accendere, funziona tutto. Cioè, io sono rinato. Accendere è una bellissima immagine. Hai collegato dei fili, schiacci il tasto e si accende. Matteo, grazie mille. In bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. L'ultimo messaggio: Luca da Como, lavoro dalle 14 alle 22 su una ruspa, quindi posso ascoltare la radio. Lavoro in fabbrica, in una fabbrica di mattoni, ma fortunatamente lavoro all'esterno su una ruspa o pala gommata. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, quelli che hanno chiamato: Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita. Grazie a Davide, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Luigi di Alessandria. La storia di domani è la mia e parla di una traversata di notte in mare. Questa è la mia storia e io sono qui.